coscienza, mano armata è tutto ciò che voglio. In una mano il sapere, nell'altra il tempo. Nella city stiamo facendo il conto dei poveri cristi che vanno a fondo. E mentre abbiamo questa città ancora in preda ai spasmi di una nuova ennesima frontiera, c'è chi chiude i problemi in galera, cannoni puntati sulle mura, tutti liberi stasera. Adesso mettono l'esercito pure per strada, ma bada uno stato che bara la vecchietta con la borsetta. Adesso insicura, il sistema tiene sotto, polizia e paura. I giovani non saranno mai il futuro. Guarda me te, sì, con le spalle al muro. Non credo a chi parla e parla di bandiera rossa e nera. È tutta gente che mangia dallo stesso sistema. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, quando sei solo tu per la strada. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, questa vita va cambiata. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, quando sei solo tu per la strada. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, questa vita va cambiata. Io so quello che succede qua fuori. Qua fuori muori, qua fuori non è rose e fiori. I ragazzi fuori sono fuori, spezzano cuori dei genitori. Muoiono come torelli contro i tori. Sono demoni vendicatori. Tieni gli occhi aperti, sono esperti flagellatori. Vogliono uscire fuori dai cori facendo fuori, ma alcuni moriranno prima dei genitori. La stampa informa realtà di cui deforma il format, ma la verità la trasforma. Questo stato puzza come una carogna, e noi finiamo in un'isola dei cani con la rogna. E le donne vengono violentate, ma la polizia dov'è? A fare per due canne e due retate. Lo stato ci infogna e ci spoglia, e le sue parole volano come una foglia. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, quando sei solo tu per la strada. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, questa vita va cambiata. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, quando sei solo tu per la strada. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, questa vita va cambiata. Avete le mie foto, avete le mie impronte, io rendo poco, invece voi morite al fronte. Spunta adesso il sole all'orizzonte, sulla mia città da tempo vedo troppe mani che si allungano e prendono. Ma quale uccertoni, i ladri stanno a Parlamento. Loro al TG stanno fingendo, e nel frattempo noi città stiamo impazzendo. E le persone per bene adesso si lamentano, e poca sicurezza per le strade commentano. I giornalisti inventino pure delle storie sul degrado delle strade e delle troie. Io li ho visti i tuoi figli, escono dalle questure salutando e sorridendo. Ho visto pure i tuoi amici, marchette negli uffici e niente sacrifici. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, quando sei solo tu per la strada. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, questa vita va cambiata. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, quando sei solo tu per la strada. Conoscenza a mano armata, conoscenza a mano armata, questa vita va cambiata.